Quarto capitolo del trattato di Megillah nella Mishnah prosegue parlando della mitzvah della lettura sia del Sefer che della Megillah. Abbiamo visto nel capitolo precedente quali sono le letture che si leggono nei momenti specifici dell'anno e qui invece in questo capitolo vedremo qual è la modalità della lettura. E inizieremo con la lettura della Megillah, che è il soggetto appunto della nostra Masechet, del nostro trattato. Allora vediamo la prima Mishnah, HaKoreh et HaMegillah. Quando si legge la Megillah durante Purim, Omed veYoshev, sia in piedi che seduti, cioè non c'è un obbligo di leggere la Megillah mentre si sta in piedi. Teoricamente si potrebbe anche stare seduti, a differenza di quanto in realtà è la regola per la lettura del Sefer della Torah, lì solamente in piedi, in questo caso della Megillah anche seduti. Poi la Mishnah dice, Kera'a Echad, Kera'u Hashenaim, la Megillah può essere letta o tutta da una persona o anche da due persone, Yatza'u, anche se fosse letto da due persone insieme, non che uno legge una parte e uno legge un'altra, ma insieme stanno leggendo la Megillah come un coro, diciamo, si esce l'obbligo. E anche questo è differente la regola per la lettura del Sefer, dove non si uscirebbe l'obbligo della mitzvah della lettura del Sefer se si sentisse da più persone. Questo è anche il motivo per cui bisogna quando si sente la lettura del Sefer, non bisogna accompagnare la lettura con la propria voce, sicuramente non ad alta voce, perché bisogna sentire solamente la voce di chi legge il Sefer. Per la Megillah c'è scritto appunto qui nella Mishnah che si uscirebbe l'obbligo anche se fossero più persone a leggerla. Poi la Mishnah dice, Makom shenagu levarech, yevarech, laddove c'è la usanza, il minhag, di dire la berachah, si fa la berachah. Shelo yevarech, veshelo levarech, lo yevarech, dove non c'è l'usanza, non si fa la berachah. Qui non stiamo parlando della berachah, shelkidshanu bemitzvotav etzivanu al mikra megillah, e cioè la berachah della lettura della Megillah, che si recita prima di leggere la Megillah. In realtà sono tre Berachot, quella della lettura della Megillah, quella She'asa Nissim La'avotenu, che ringrazia HaKadosh Baruch Hu per i miracoli, e quella di Shecheyanu, del momento dell'anno che stiamo vivendo. Qui c'è la mitzvah di dire la Berachah prima di leggere la Megillah. La nostra Mishnah dice però, riguardo alla Berachah successiva alla lettura della Megillah, che è intitolata Harav Et Rivenu, questa berachà dipende dal minhag del luogo. Oggigiorno in tutti i luoghi si usa a dire questa berachà, per quanto ne so, però all'epoca c'erano ancora usanze diverse a riguardo. Ora la Mishnah prosegue venendo alla lettura del Sefer e dicendoci quante persone vengono chiamate a Sefer. Vasheni u vachamishi, nei giorni lunedì e giovedì della settimana, di ogni settimana, uva Shabbat ba Mincha, e anche durante il giorno dello Shabbat alla Tefillah di Mincha, Korim Shelosha, si chiamano al Sefer tre persone che idealmente dovrebbero essere prima un Kohen, poi un Levi, poi un Israel. En Pochatin, non si chiamano meno di tre persone. Ve'en mosifin alehem, ma anche non si aumenta, non si aggiunge un'ulteriore chiamata o più chiamate, perché il motivo è un motivo tecnico. Il lunedì e il giovedì sono giorni lavorativi e non bisogna allungare troppo la tefilà e la lettura del Sefer, per far sì che la gente possa andare a lavorare in tempo. Shabbat a Mincha, anche lì non si aggiunge, non è lavorativo ovviamente, ma anche lì non si aggiungono chiamate, perché Shabbat a Mincha si potrebbe fare la tefilah tardi nella giornata, e anche vicino al momento del tramonto, quindi non si vuole andare oltre l'orario. In questi tre casi, cioè lunedì, giovedì e Shabbat Mincha, la Mishnah prosegue parlando sempre di questo, Ve'en Maftirim Benavi, non si conclude la lettura con un'ulteriore lettura tratta dal Navi, dai profeti, come si farebbe invece nella mattina dei Shabbat e Moadim, nei digiuni, eccetera. E la motivazione per la quale non si fa questo è lo stesso motivo che abbiamo detto prima riguardo il non aggiungere al numero delle chiamate. La Mishnah prosegue: Apoteach veachotem batorah mevarech lefaneha uleachareha. Qui la Mishnah sta dicendo così: Apoteach, colui che apre la lettura, quindi qui primo che viene chiamato a Sefer, veachotem, colui che chiude la lettura, quindi l'ultimo che viene chiamato a Sefer. Nel nostro caso di lunedì, per esempio, la prima chiamata e la terza chiamata. Mevarech fa la berachà prima della lettura e quella dopo della lettura. La Mishnah sta dicendo la seguente cosa. All'epoca si usava così, ovviamente non è più l'uso in questa maniera. L'uso era, noi siamo abituati a vedere due berachot, uno all'inizio della chiamata del Sefer e uno successivamente alla lettura del Sefer dopo che la chiamata è conclusa. All'epoca della Mishnah invece si faceva una berachà che recitava il primo che veniva chiamato a Sefer prima dell'inizio della prima chiamata, e poi non si facevano altre berachot fino alla conclusione totale della lettura. A quel punto chi aveva l'ultima chiamata recitava la berachà di conclusione. Questo era l'uso all'epoca della Mishnah. Già ai tempi del Talmud, quindi successivamente all'epoca della Mishnah, ma non tantissimo tempo dopo, nella visione storica, hanno istituito i maestri che si faccia la berachà così come facciamo oggi. Il motivo che la Gemara dà per questo minhag nuovo, diciamo così, Gezerah mishuma nichnasim u mishuma yotzim, cioè per coloro che entrano e escono, eventualmente ci potrebbero essere delle persone che entrano al Betacnese dopo che è già iniziata la lettura e non hanno sentito la berachà, potrebbe pensare che si legge il Sefer senza berachà, o chi esce potrebbe pensare che non si conclude la lettura con una berachà, si potrebbe arrivare a degli errori su ciò che sono le regole della berachà del Sefer, e di conseguenza i maestri hanno istituito nell'epoca del Talmud, della Gemara, che bisogna recitare la berachà in tutte le chiamate, sia prima che dopo. Seconda Mishnah, quarto capitolo, ora la Mishnah continua, prosegue sullo stesso tema della Mishnah precedente. Berashei Chodashim, nei giorni di Rosh Chodesh, uvechulo shel Moed, nei giorni di Chol HaMoed durante Pesach e Sukkot, Korin Arba'a, in questi giorni, visto che c'è un Korban Musaf, c'è una ulteriore funzione nel Bet HaMikdash, in onore di questo è considerato un giorno più festivo rispetto agli altri giorni e si aggiunge una chiamata, quindi quattro chiamate, anche qui En Pochatin Mehen Ven Mosifin Alehem. Anche in questo caso non si fanno di meno né di più. E il motivo è anche simile al motivo spiegato per le tre chiamate tassative, non più e meno. Ven Maftirin Banavi, e di nuovo anche qui non si fa il Maftir, cioè non si conclude con una lettura dei Nevim, dei profeti. Come abbiamo detto riguardo la Berachà, ripetiamo anche qui, Apoteach veachotem batorah, colui che apre e colui che conclude la lettura, questi due sono quelli che fanno la prima e l'ultima Berachà, quindi Mevarech benedice Lefanea prima della lettura, Uleacharea e dopo la conclusione di tutta la lettura. Ze Hakelal, la seguente è la regola generale. Kol sheyeshbo musaf, ogni giorno in cui c'è un korban e quindi una amidà di musaf, veino yom tov, ma non è festività solenne, non è moed, quindi Rosh Chodesh e Chol HaMoed come abbiamo detto, Korin Arba. In questi casi si chiamano al Sefer quattro persone. Mentre invece Biyom Tov, i giorni in cui è vietato fare melacha come Shabbat, con l'eccezione dei melacha legata al cibo, eccetera, in questi giorni Hamisha si chiamano qua cinque persone al Sefer. Perché con l'aggiunta della Kedushah nel giorno aggiungiamo una chiamata. Yom HaKippurim, il giorno di Kippur in cui si aggiunge anche il divieto legato al cibo della Melachah, in questo caso si aggiunge una chiamata e arriviamo a Shisha, sei chiamate. Shabbat, dove si aggiunge il livello di rigore, perché colui che fa Melachah durante Kippur, appositamente, volutamente, c'è la pena del Karet, mentre invece a Shabbat c'è la pena di morte a mano del Beddin, del Sanedrin, che è considerata una pena più rigorosa rispetto al Karet, che è una pena spirituale. Allora, in questo caso, aggiungendo il livello di Kedushah, Shiva, si arriva a sette chiamate, e in questi ultimi tre casi che abbiamo detto, quindi Moed 5, Kippur 6, Shabbat 7, En Pochatin Mehen, non si fanno meno di questo numero indicato, Aval Mosifin Alehem, ma si può e si permesso aggiungere, non sono giorni lavorativi, quindi è permesso aumentare il numero delle chiamate. Umaftirin Benavi, inoltre, per lo stesso motivo appunto, si fa il maftir, cioè si conclude la lettura leggendo un pezzo tratto dai profeti, un brano tratto dai profeti. Anche qui abbiamo aggiunto l'indicazione riguardo la Berachà, che il primo dice la prima Berachà e l'ultimo dice l'ultima Berachà. Come abbiamo già ricordato, però poi all'epoca del Talmud questa usanza è stata cambiata e ognuno fa tutte e due le Berachot.